Io vita non ne ho, però un sorriso perso che mi porta via, oscura malattia, risposte non ne ho, però sai, posso prenderne una delle tue, che ora sento già mie, e dimmi dove sei e dove ti nascondi, lontano, lontano, nel solito hangar, ma io no, vita non ne ho. E naufrago il mio cuore tra antichi uragani. E vado via, fuori dai sogni, come fossi un istante, un attimo che non torna più. Oh, fuori dai sogni, io troverò. Acida adesso.